Dennis fu trasportato da Nairobi nelle prime ore del pomeriggio. Il corteo seguì la vecchia pista del suo safari fino a Tanganyika, avanzando lento sulla strada bagnata. Giunti all'ultima salita, troppo ripida, sollevarono la bara stretta, coperta con una bandiera, e la portarono a spalla. Mentre la calavano nella tomba, il paesaggio parve trasformarsi, divenire lo scenario creato apposta per quella bara. Le colline si ergevano gravi, consce di quanto stava avvenendo nel loro grembo. La cerimonia finì per divenire una cosa loro, un rapporto fra esse e Dennis. Gli altri erano soltanto piccole figure di spettatori nel paesaggio. Dennis aveva scrutato e seguito tutte le strade degli altipiani d'Africa, aveva conosciuto meglio di qualsiasi altro bianco la terra e il cielo, le piante, gli animali selvatici, il vento e i profumi. Aveva osservato i cambiamenti di stagione, la gente, le nubi, le stelle notturne. Qui, sulle colline, non molto tempo prima, l'avevo visto a testa nuda nel sole del pomeriggio scrutare intorno col binocolo per scoprire tutti i segreti di quella terra. Aveva assorbito il senso di quel paese. Nei suoi occhi e nella sua mente esso si era mutato, assumendo il segno della sua individualità, diventando parte della sua realtà. Ora l'Africa accoglieva lui, avrebbe mutato lui, lo avrebbe fatto diventare parte di sé. Il vescovo di Nairobi, mi dissero, non era voluto venire perché non avevano avuto tempo di consacrare il luogo della sepoltura. Il servizio funebre, che non avevo ancora mai sentito, fu letto da un altro religioso. In quell'immenso spazio la voce suonava esile e chiara, come la voce di un uccello sulle colline. Dennis, pensai, sarebbe stato più contento quando tutto fosse finito. Il prete lesse un salmo, leverò i miei occhi sulle colline. Partiti gli altri bianchi, Gustav Mohr ed io restammo un po' là, seduti. I maomettani aspettarono che ce ne andassimo, poi si accostarono alla tomba per dire le loro preghiere. Nei giorni successivi alla morte di Denis, vennero anche i suoi portatori. Non dicevano nulla e non chiedevano nulla. Sedevano, appoggiandosi con le spalle al muro e il dorso della mano contro la terra, immersi per lo più in un silenzio raro per gli indigeni. Vennero Malimu e Sarsita, gli audaci, accorti, intrepidi portatori e battitori che l'avevano accompagnato in tutti i safari. Avevano partecipato anche a spedizioni del principe di Galles. Costui, dopo molti anni, ricordava ancora il loro nome, considerandoli imbattibili. Ma ora i grandi battitori avevano smarrito la pista e sedevano immobili. Venne Canutia, l'autista che aveva portato Dennis per migliaia di chilometri attraverso la natura selvaggia, un giovane kikuyu sottile, dagli occhi vigili di scimmia, seduto ora vicino alla mia casa come una scimmia in gabbia, triste e infreddolita. Venne da Nairobi Bilea Isa, il servo somalo di Dennis. Bile aveva studiato in Inghilterra, v'era tornato due volte con Dennis e parlava inglese come un gentiluomo. Qualche anno prima, a Nairobi, Dennis e io avevamo assistito al suo matrimonio, una cerimonia stupenda durata 7 giorni. Per l'occasione, il grande viaggiatore e lo studioso era tornato alle abitudini dei suoi antenati, indossando un mantello dorato, accogliendoci con un inchino fino a terra, e danzando la danza selvaggia della spada, invaso dallo spirito sfrenato del deserto. Recatosi alla tomba del padrone, vi sedette sopra. Al ritorno parlò pochissimo, ma si mise anche lui accanto agli altri, con le spalle al muro e il dorso della mano sulla terra. Farah andò a parlare con quegli uomini in lutto, era anche lui profondamente addolorato. Non sarebbe stato tanto triste vederti partire, mi disse, se almeno Bedar fosse ancora fra noi. Gli indigeni di Dennis rimasero 7 o 8 giorni, poi uno dopo l'altro se ne andarono. Mi recavo spesso alla tomba di Dennis. In linea d'aria distava a meno di 10 chilometri da casa mia, ma con tutte le curve della strada diventavano 20. La tomba si trovava a 300 metri più in alto di casa mia. L'aria era diversa, chiara come un bicchier d'acqua. A testa nuda, venti dolci e leggeri scompigliavano i capelli. Sulle cime delle colline da oriente giungevano nubi vaganti che proiettavano sulla vasta terra ondulata la loro nobile ombra, per poi dissolversi e sparire sulla valle del Rift. Comprai al duca un metro di quella stoffa bianca che gli indigeni chiamano americani e, piantati con l'aiuto di Farah, tre pali alti dietro la tomba, ve la inchiodai sopra. Così da casa mia potevo distinguerne il punto esatto, come una piccola macchia bianca nel verde della collina. Aveva piovuto molto quell'anno e temevo che l'erba ricoprisse la tomba fino a nasconderla del tutto. Così, un giorno, prendemmo le pietre bianche del viale che Caromeni aveva spinto fino alla mia porta, le caricammo nel portabagagli dell'automobile e ci recammo sulla collina. Liberata la tomba dall'erba, la ricoprimo di pietre. Ora non v'era pericolo di non ritrovarla. Vi andavo spesso e vi conducevo i bambini della fattoria, tanto che per essi divenne un luogo familiare di cui sapevano indicare la strada a chi non la conoscesse. Costruirono anche un piccolo rifugio fra i cespugli lì accanto. Durante l'estate venne da Mombasa Ali bin Salim, amico di Denis, per gettarsi sulla sua tomba e piangere la sua morte alla maniera araba. Un giorno vi trovai Hugh Martin. Parlammo a lungo seduti sull'erba. La morte di Dennis era stata un dolore per Hugh Martin. Se un essere umano aveva contato qualche cosa nella sua bizzarra esistenza solitaria, era Dennis. Un ideale è una cosa strana. Nessuno avrebbe pensato che Hugh ne avesse uno, né che la perdita dell'amico potesse essere per lui come la perdita di una parte vitale. Invece, dopo la morte di Dennis, non fu più lo stesso. Pareva invecchiato, col viso chiazzato e contratto. Ma serbava ancora il suo placido sorriso da idolo cinese, quasi conoscesse un segreto ignoto agli altri, da cui traeva un enorme, celato piacere. Mi disse che durante la notte aveva improvvisamente trovato il giusto epitaffio per Denis. Doveva essere di un autore greco. Dopo averlo recitato in greco, me lo tradusse. Diceva: «Non mi curo se nella morte il fuoco si mescolerà alla mia polvere. Ora per me tutto è bene». In seguito, Lord Winchelsea, fratello di Denis, fece mettere sulla tomba un obelisco con un'iscrizione dall'antico marinaio, un poema che Denis aveva molto amato. Io non lo conoscevo ed era stato lui a recitarmelo. La prima volta, ricordo, mentre ci recavamo al matrimonio di Bilea. L'obelisco fu messo quando avevo già lasciato l'Africa e non l'ho visto mai. Anche in Inghilterra c'è un monumento a Denis. I suoi compagni di scuola fecero costruire in memoria di lui un ponte di pietra su un piccolo fiume che divide due campi a Eton. Su uno dei parapetti si legge il suo nome e la data del suo soggiorno a Eton, sull'altro la scritta «Famoso in questi campi e amatissimo dai suoi molti amici». Il sentiero della sua vita corre fra il fiume del dolce paesaggio inglese e la cresta di montagne africane. Pareva, quando era vivo, che quel sentiero serpeggiasse e deviasse, ma era un'illusione ottica. Deviava solo ciò che lo circondava. L'arco fu teso sul ponte di Eton. La freccia scoccata, descritta la sua orbita, raggiunse l'obelisco sulle colline del Gong. Dopo il mio addio all'Africa, Gustav Mohr mi scrisse che vicino alla tomba di Denis era successa una cosa strana. Non aveva mai sentito raccontare niente di simile. I Masai, scrisse, hanno riferito al commissario distrettuale del Gong che spesso all'alba e al tramonto, sulla tomba di Finch Hatton, sulle colline, hanno visto i leoni. Una volta un leone e una leonessa sono rimasti lì a lungo, in piedi o accucciati. Anche alcuni indiani che passavano lì accanto con l'autocarro diretti a Caiado li hanno scorti. Dopo la tua partenza, il terreno intorno alla tomba è stato livellato, forma una specie di grande terrazzo. Immagino che i leoni ci vadano volentieri perché di là possono dominare tutta la pianura, le greggi e gli animali selvatici. Era giusto che i leoni si accucciassero sulla tomba di Denis, erigendogli un monumento africano. E rinomata sia la tua tomba. Persino Lord Nelson, pensavo, a Trafalgar Square ha solo dei leoni di pietra. Capitolo 4. Farah e io vendiamo tutto. Ormai ero sola alla fattoria. Non mi apparteneva più, ma i nuovi proprietari mi avevano offerto di restarvi finché volevo. Per pura formalità pagavo un affitto di uno scellino al giorno. Dovevo vendere i mobili, compito tutt'altro che lieve per Farah e per me. Avevamo messo porcellane e cristalli in bella vista sul tavolo della stanza da pranzo, ma quando si vendette il tavolo dovemmo disporli pezzo per pezzo sul pavimento. L'orologio a cucù sul muro continuava a segnare le ore con arroganza, ma poi fu ceduto anche lui e volò via. Un giorno vendetti ad una signora i miei bei bicchieri, ma la notte mi pentii. E al mattino mi recai in macchina a Nairobi per farmeli restituire. Non sapevo dove metterli, ma tanti miei amici li avevano toccati, bevendo da loro coppe di vini squisiti. Pareva serbassero ancora un eco dei nostri discorsi, non li volevo cedere ad altri. In fondo, pensavo, sarebbe stato sempre più facile romperli. Possedevo un parafuoco di legno con dipinte figure di cinesi, sultani e neri recanti cani al guinzaglio. Era stato sempre vicino al caminetto. La sera, quando il fuoco scoppiettava allegramente, quei personaggi prendevano corpo. Pareva quasi illustrassero le storie che narravo a Denis. Lo guardai ben bene, poi lo piegai e lo misi in una cassa. Quei signori, per il momento, potevano stare in riposo. In quel periodo, a Nairobi, stavano portando a termine il palazzo che Lady Macmillan aveva fatto costruire in memoria di suo marito, Sir Northrop Macmillan, un bel edificio con biblioteche e sale di lettura. Lady Macmillan venne a trovarmi alla fattoria, mi parlò con tristezza dei vecchi tempi e comprò per la biblioteca quasi tutti i miei mobili danesi. Mi faceva piacere che quei gai, saggi, ospitali, armadietti e stipi restassero insieme fra libri e studenti, come un piccolo circolo di signore riuscite chissà come durante la rivoluzione a trovare asilo in un'università. I miei libri li raccolsi nelle casse che poi mi servirono per tanto tempo da sedie e tavolini. In colonia i libri hanno una funzione diversa che in Europa. Essi soltanto possono soddisfare un certo aspetto della nostra vita laggiù. Se sono belli, ci si commuove. Se sono brutti, ci si indigna con una foga ignota nei paesi civili. I personaggi immaginari dei libri letti galoppano accanto al tuo cavallo o passeggiano insieme a te nei campi di Gran Turco. Sanno trovare da soli, come abili soldati, il posto dove piantare le tende. Avevo appena letto Giallo Cromo, la sera prima. Non conoscevo l'autore e il libro, pescato in un negozio di Nairobi, ma mi aveva resa felice come la scoperta di una nuova isola verde nel mare. Quando una mattina, andando a cavallo in una valle della riserva di caccia, mi imbattei in un piccolo duiker. Si trasformò immediatamente per me in un cervo a cui Sir Hercules, insieme a sua moglie e alla sua muta di bulldog giallo-bruni, poteva dar la caccia. Tutti i personaggi di Walter Scott erano di casa da quelle parti. Li incontravo dovunque, come incontravo Ulisse e i suoi uomini e chissà perché molti personaggi di Racine. C'era Peter Schlemihl che correva per le colline con gli stivali delle sette leghe e c'era Clown Ageb, l'ape operaia, che aveva preso dimora nel mio giardino vicino al fiume. Passo passo, tutto quanto mi apparteneva venne venduto, imballato e spedito. La casa divenne Das Ding an sich, nobile come un teschio, un posto fresco e ampio dove regnava l'eco e l'erba giungeva fin sui gradini della porta. Alla fine le stanze erano completamente nude. In quel momento, col mio animo di allora, mi sembravano il posto ideale per vivere. Avremmo dovuto tenere la casa sempre così, disse a Farah. E Farah capì cosa intendevo. In tutti i somali vi è una parte di ascetismo. In quel periodo Farah si dedicava anima e corpo a me e alla fattoria, ma diventava sempre di più un vero somalo. Ricordavo l'impressione che mi aveva fatto quando era venuto a prendermi al mio arrivo in Africa. Si preoccupava delle mie scarpe sciupate e un giorno mi confidò che pregava Dio perché mi durassero fino a Parigi. In quei mesi indossava sempre i suoi vestiti migliori. Ne aveva tanti: panciotti arabi ricamati d'oro regalatigli da me, un elegante panciotto militare rosso con i galloni d'oro regalatogli da Berkeley Cole, turbanti di seta dalle tinte stupende. Di solito li teneva nel cassetto per indossarli solo nelle grandi occasioni, ma ora li aveva tirati fuori tutti. Mi seguiva per le strade di Nairobi a un passo di distanza, rispettosamente, o mi aspettava sulle sudice scale degli edifici governativi e degli uffici legali, abbigliato come il re Salomone, i giorni del suo grande splendore. Solo un somalo avrebbe potuto farlo. Dovevo ormai decidere anche la sorte dei miei cavalli e dei miei cani. Alla fine scelsi di regalarli ai miei amici. Mi recai a Nairobi sul mio cavallo favorito, Rouge. Andavo a passo lento, guardando la campagna intorno. Era strano per Rouge, pensavo, andare a Nairobi per non tornare più indietro. Lo sistemai nel vagone per i cavalli del treno di Naivasha. Là, per l'ultima volta, il suo muso di seta mi strusciò le mani e il viso. Non ti lascerò andare, Rouge, se non mi concedi la tua benedizione. Abbiamo scoperto insieme i sentieri che portavano al fiume tra le shambas e le capanne indigene. Scendevi agile come un mulo per l'argine scivoloso, la tua testa sfiorava la mia nella corrente bruna. Possa tu ora, in una valle di nubi, pascolare garofani alla tua destra e violaciocche alla tua sinistra. I due giovani bracchi di allora, David e Dinah, figli di Pania, li diedi a un amico di una fattoria vicino a Gilgil. Là sarebbero potuti andare a caccia quanto volevano. Forti e giocherelloni fecero una partenza in grande stile, in una macchina venuta appositamente per loro. Col muso fuori dal finestrino, ansavano, la lingua a penzoloni, come eccitati dalla pista di una nuova e stupenda preda. Quegli occhi acuti, quelle zampe veloci, quei cuori pieni di ardore lasciavano la casa e la pianura per recarsi a scorazzare felici in altri luoghi. Ormai anche la mia gente cominciava ad abbandonare la fattoria. Non curavo più la piantagione. Lo stabilimento era chiuso, Puran Singh si trovò senza lavoro, non volle cercarsene un altro in Africa, preferì tornare in India. Fuori della sua bottega, Puran Singh, il dominatore del ferro, diveniva come un bambino. Non si sapeva rassegnare a vedere la fattoria finire a quel modo. Se ne affliggeva, ne piangeva, grosse lacrime gli correvano per la barba nera. Non mi lasciava respiro con le sue manovre per impedire la mia partenza e i suoi piani ottimistici. Era sempre stato orgoglioso dei nostri macchinari, benché non fossero certo perfezionatissimi. Adesso non riusciva a staccarsi dalla macchina a vapore e dall'essiccatore del caffè. Se li divorava dado per dado con i suoi affettuosi occhi neri. Poi, quando finalmente si convinse che non vi era speranza, si arrese. E si arrese di colpo, benché ancora profondamente addolorato, aveva smesso di lottare. Quando per caso lo incontravo, mi parlava ormai dei viaggi che aveva in mente. Il giorno della partenza recava come unico bagaglio una cassetta di strumenti e arnesi per le saldature. Aveva già mandato il suo cuore e la sua vita al di là dell'oceano. Ora a seguirli restava solo la sua figura bruna e magra, senza pretese, armata del bricchetto della fiamma ossidrica. Prima che lasciasse la fattoria, volevo fargli un regalo e gli chiesi cosa gli sarebbe piaciuto. Speravo scegliesse un oggetto che possedevo già, invece, tutto felice, mi domandò un anello. Anelli non ne avevo e soldi per comprarne nemmeno. Ero all'epoca in cui Dennis veniva ancora a cena alla fattoria e una sera gli confessai il mio imbarazzo. In quel momento portavo un anello d'oro abissino, uno di quegli anelli a vite adattabili a qualsiasi dito. Me l'aveva regalato lui stesso e credette di leggere nei miei occhi la vaga intenzione di darlo a Puran Singh. Diceva sempre che non poteva mai farmi un regalo senza che io lo trasferissi subito a qualcuno dei miei indigeni. Quella volta, per impedirmelo, me lo sfilò dal dito e se lo mise lui. Pochi giorni dopo si recò con l'aereo a Mombasa. L'anello fu sepolto con lui. Più tardi riuscii ugualmente a trovare i soldi per comprare a Puran Singh il suo anello, un anello d'oro pesante con una grossa pietra rossa, probabilmente di vetro. La felicità fece spargere ancora qualche lacrima al mio fabbro indiano. Quell'anello forse gli fu d'aiuto al momento in cui dovette separarsi per sempre dalla fattoria e dalle sue care macchine. Le settimane prima della partenza non se lo toglieva mai. Quando veniva a casa alzava la mano con un sorriso radioso e gentile per mostrarmelo. L'ultima cosa che vidi di lui alla stazione di Nairobi fu quella mano magra e scura che aveva lavorato alla fattoria con furiosa energia e ora mi salutava dal finestrino del treno indigeno, surriscaldato e pieno di gente, dove Puran Singh si era fatto uno sgabello della cassetta di attrezzi. La pietra rossa scintillava come una piccola stella mentre mi faceva cenno d'addio. Puran Singh si trasferì a Punjab dalla famiglia che non vedeva da anni, ma con cui era rimasto sempre in contatto. Conservava le fotografie nella sua cassetta di lamiera ondulata vicino allo stabilimento e spesso me le mostrava con tenerezza e orgoglio. Mi scrisse molte lettere, le prime dal battello che lo conduceva in India. Cominciavano tutte allo stesso modo, cara signora, addio, e proseguivano con i racconti delle sue avventure di viaggio. Una mattina, una settimana dopo la morte di Dennis, mi accadde una cosa strana. Ero a letto e stavo ripensando agli avvenimenti degli ultimi mesi, cercando di afferrarne il significato. Mi pareva di essere uscita, non so come, dal corso normale dell'esistenza umana e di ritrovarmi in un vortice dove non avrei mai dovuto entrare. Ovunque andavo, la terra sprofondava sotto di me, le stelle rotolavano dal cielo. Pensavo al poema di Ragnarok, che descrive la caduta delle stelle e i nani attoniti, gementi, chiusi nelle loro grotte sulle montagne dove muoiono di paura. Tutto ciò non può essere, pensavo, solo quell'insieme di circostanze che la gente chiama un periodo di sfortuna. Deve celare un principio, un centro. Se lo scopro, sono salva. Se trovo la prospettiva giusta, mi dicevo, le cose mi appariranno tutte chiare e coerenti. Devo alzarmi, conclusi, e cercare un segno. A molti pare assurdo andare in cerca di un segno, forse perché per riuscire a trovarlo occorre uno stato d'animo speciale, non comune. Ma se si chiede un segno in quello stato di grazia, la risposta non può mancare. È la conseguenza naturale della domanda. Non diversamente, nel momento dell'ispirazione, il giocatore raccoglie 13 carte, prende quella che si chiama una mano. Un'unità, dove gli altri non vedono nessuna possibilità, lui vede un grande slam che lo fissa in faccia. Ma c'è nelle carte il grande slam? Sì, per quel solo giocatore in quel momento. Uscii in cerca di un segno, vagabondai a caso verso le capanne dei domestici. Avevano appena lasciato liberi i polli che correvano qua e là fra le case. Mi fermai a guardarli. Mi venne incontro, pavoneggiandosi, il grande gallo bianco di Fatima. D'un tratto si fermò, volse la testa prima da una parte e poi dall'altra, drizzando la cresta. Dall'altro lato del sentiero sbucò dall'erba un piccolo camaleonte grigio. Anche lui, come il gallo, compiva una perlustrazione mattutina. Ma il gallo gli piombò dritto sopra. I polli sono ghiotti di camaleonti, chiocciando di piacere. Il camaleonte si arrestò paralizzato alla sua vista, atterrito ma impavido, piantò i piedi per terra, spalancò la bocca più che poté e per spaventare il suo nemico tirò fuori in un lampo la lingua a bastone. Il gallo rimase per un secondo immobilizzato dalla sorpresa, poi, nel giro di 10 secondi, lo uccise. Terrorizzata dalla scena, duello atroce e formidabile in miniatura, andai a sedermi sulla panchina di pietra vicino a casa. Farah mi portò il tè là fuori sul tavolo. Guardavo a terra senza osare di alzare gli occhi. Il mondo mi sembrava irto di pericoli. Solo molto lentamente, nei giorni che seguirono, mi resi conto che la mia invocazione aveva avuto la più spirituale delle risposte. In un certo modo strano, avevo persino ricevuto un segno di distinzione. I poteri da me invocati avevano riconosciuto la mia dignità più di quanto la riconoscessi io stessa. Che altra risposta potevano darmi allora? Non era certo il momento di far convenevoli, io li avevo interrogati e loro avevano accettato di darmi una risposta. I grandi poteri avevano riso e le colline avevano rimandato l'eco della loro risata. Fra le trombe, fra i galli e i camaleonti. Più o meno in quel periodo, ma prima che regalassi i cavalli, Ingrid Lindstrom venne dalla sua fattoria a Nioro per tenermi compagnia. Fu Fu un vero gesto di amicizia. Non era facile per lei lasciare il suo lavoro. Per pagare i terreni acquistati a Nioro, suo marito si era impiegato in una grossa società di fibre vegetali a Tanganyika. In quei giorni stava faticando a 600 metri di altezza. Era come se Ingrid, per salvare la fattoria, lo avesse ceduto in affitto come schiavo. Nel frattempo doveva occuparsi lei di tutto. Aveva ampliato l'allevamento dei polli, la produzione degli ortaggi, creato un reparto per maiali e covate di giovani tacchini. Abbandonare la fattoria, sia pure per pochi giorni, non le era facile, ma per amor mio affidò tutto a Chemosa e si precipitò da me come si sarebbe precipitata da un amico la cui casa fosse in fiamme. Venne senza Chemosa e, date le circostanze, per Farah fu probabilmente un bene. Ingrid capiva e comprendeva con tutto il cuore, col grande slancio della natura, cosa significhi per una donna dover cedere e abbandonare la fattoria dove è stata padrona. Fino al giorno della sua partenza non parlammo né del passato né del futuro, non nominammo uno solo dei nostri amici o conoscenti. Il disastro del presente ci assorbiva interamente. Andavamo in giro per la fattoria, nominando una per una ogni cosa che vedevamo, quasi volessimo compilare un triste inventario della mia perdita o raccogliere un libro di lamenti da mostrare al destino. Ingrid sapeva benissimo, per esperienza diretta, che tale libro non esiste, ma le donne segretamente non possono fare a meno di immaginarlo. Al recinto dei buoi ci sedevamo sulla palizzata per contare ad una le bestie di ritorno dal pascolo. Le indicavo ad Ingrid senza commenti. Quei buoi, dicevo. E senza commenti rispondeva già, quei buoi, registrandoli nel libro. Andavamo per le stalle a dare zucchero ai cavalli, mostrandole col pianto in gola le palme attaccatici e umide di saliva, sospiravo: questi cavalli! Ingrid mi faceva eco dolente, già, questi cavalli, e li registrava. Giunta al mio giardino, vicino al fiume, strusciava le mani sulla salvia, la menta e la lavanda. L'idea che mi toccasse abbandonare le piante portate dall'Europa le pareva intollerabile. Per un pezzo non riusciva a parlare d'altro, quasi escogitando mille sistemi perché potessi portarle con me. Passavamo pomeriggi interi a contemplare il mio piccolo gregge di mucche indigene intente al pascolo sul prato. Le dicevo quanti anni avevano, com'erano, quanto latte davano. Ad ogni particolare gemeva come se qualcuno le facesse del male. Le esaminava attentamente una per una, non per interesse commerciale, che sarebbero passate tutte quante ai miei servi, ma per valutare e giudicare fino in fondo la mia perdita. Indugiava soprattutto davanti ai vitellini dal pelo morbido e dal profumo dolce. Lei, che aveva faticato tanto per possedere due o tre mucche e qualche vitello nella fattoria, ora, assurdamente, senza volerlo, mi lanciava occhiate piene di rimprovero e di ira perché abbandonavo le mie. Se un uomo, trovandosi accanto ad un amico colpito dalla sventura, si sorprende a pensare, grazie alla sorte non è toccato a me, sentendosi subito a disagio, cerca di reprimere quel sentimento affacciato, sì, suo malgrado. Fra due donne è diverso. Quando una dimostra all'altra la propria profonda partecipazione alle sue disgrazie, resta sottinteso che in cuor suo continuerà a dirsi, grazie alla sorte non è toccato a me. Questo non crea fra loro nessun imbarazzo, al contrario è un modo di sentirsi vicine, di dare alla cerimonia un'impronta personale. Gli uomini forse non sarebbero capaci di individuare o vincere un altro con grazia e semplicità. Si sa che la sposa trionfa sulle damigelle e che la puerpera è invidiata dalle amiche in vista, ma senza imbarazzo per nessuno. Quando una donna mostra all'amica i vestiti di un figlio perduto, sa che l'altra pensa in cuor suo, grazie alla sorte non è toccato a me. E agli occhi di entrambe non vi è in questo nulla di strano o di innaturale. Così era per Ingrid e me. Mentre passeggiavamo insieme per la piantagione, sapevo che pensava alla sua fattoria e si rallegrava di non averla perduta o di poter continuare a lottare per non perderla, ma ciò non creava fra noi nessuna disarmonia. Malgrado i pantaloni e i vecchi cappotti cachi, eravamo in realtà due donne mitiche, avvolta una in vesti bianche e l'altra in vesti nere, un'unità, i geni della vita del colono in Africa. Di lì a qualche giorno, Ingrid mi disse addio tornandosene a Nioro col treno.